Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Per non lasciare che il silenzio si prolungasse troppo, chiese al signor Burns se aveva scritto alla moglie del suo capitano. Scosse il capo. Non aveva scritto a nessuno. Prese subito un'aria cupa. Non aveva affatto pensato a scrivere. Il suo tempo era tutto assorbito dalla continua sorveglianza della caricazione della nave effettuata da un furfante di stivatore cinese. Con ciò il signor Burns mi fece intravedere per la prima volta la vera anima che albergava con un certo disagio nel suo corpo. Rimasi assorto, poi riprese con cupa foga. Sì, il capitano morì quasi a mezzogiorno preciso. Esaminai le sue carte nel pomeriggio. Lessi il servizio funebre al tramonto e poi misi la prua a nord e condussi la nave in porto qui. L'ho condotta in porto io. Picchiò un pugno sul tavolo. Era un po' difficile che fosse venuta in porto da sola, commentai. Ma perché non far rotta su Singapore piuttosto? Gli vacillò lo sguardo. Era il porto più vicino, borbottò imbronciato. Avevo formulato la domanda con tutta innocenza, ma quella risposta, poiché lo scarto tra le due distanze era insignificante, nonché il suo atteggiamento, mi fornirono un indizio della pura verità. Aveva condotto la nave in un porto dove sperava di venir confermato nel suo comando temporaneo, per mancanza di un capitano con patente da mettere sopra di lui. Singapore, invece, come egli aveva giustamente arguito, era piena di marinai con patente. Ma il suo ingenuo calcolo non aveva tenuto conto del cavo telegrafico posato sul fondo del golfo stesso nel quale aveva governato la nave che egli si immaginava di aver salvata dalla distruzione. Da ciò l'amaro sapore del nostro colloquio. Avvertivo questo sapore sempre più nettamente ed era sempre meno di mio gusto. «Sentite, signor Burns», presi a dire con molta fermezza, «sappiate bene che non sono corso dietro a questo comando. È stato messo di forza sul mio cammino. Io l'ho accettato. Sono qui per riportare la nave in patria prima di tutto e state pur certo che baderò affinché ognuno di voi qui a bordo faccia il proprio dovere a tal fine. Non ho altro da dire, per il momento». Si era già alzato a questo punto, ma invece di prendere commiato rimase lì con le labbra che gli tremavano di sdegno e guardandomi fisso, come se davvero, dopo di ciò, non mi restasse altro da fare, per semplice pudore, che sparire dalla sua oltraggiata presenza. Al pari di ogni semplice stato emotivo, questo era commovente. Me ne dispiacque per lui, quasi lo compatì, finché, visto che non sparivo, parlò, con forzato riserbo. «Se a casa non avessi moglie e un bambino, state certo, capitano, che vi avrei chiesto di lasciarmi andar via nel preciso istante in cui avete messo piede a bordo». Gli risposi con la più naturale calma, come se fosse in questione una terza persona molto distante. «Ed io, signor Burns, non vi avrei lasciato andare. Avete firmato il contratto d'arruolamento come primo ufficiale e finché non scade col rientro al porto di scalo, conto che adempirete alle vostre mansioni e che mi farete profittare della vostra esperienza al massimo delle vostre capacità». Gli indugiava nello sguardo un'irremovibile incredulità, ma cedette di fronte al mio atteggiamento amichevole. Egli allargò un po' le braccia, gesto che doveva diventarmi familiare in seguito, e si precipitò fuori della saletta. Ci potevamo risparmiare quello scambio di incruente beccate. Non passarono molti giorni ed era il signor Burns a supplicarmi di non lasciarlo a terra, mentre io potevo rispondergli solo evasivamente. Tutta quella faccenda prese una piega piuttosto tragica. Questo fastidioso problema era soltanto un episodio estraneo, una semplice complicazione rispetto al problema sostanziale di riuscire a portare quella nave, che era mia, con annessi e connessi, e col suo equipaggio, e col suo corpo e col suo spirito ora assopiti su quel fiume mefitico, di riuscire a portarla in mare. Il signor Burns, quando avevo ancora funzione di capitano, si era precipitato a firmare un contratto di noleggio che, in un mondo ideale, immune da frode, sarebbe stato un'ottima scrittura. Mi bastò scorrerla per accorgermi che andavamo incontro a guai, salvo che la controparte non fosse fatta di gente eccezionalmente onesta e aperta alla discussione. Il signor Burns, al quale confidai i miei timori, credette bene di adombrarsene grandemente. Mi fissò con quel solito sguardo incredulo e disse con asprezza: «Mi pare, capitano, che vogliate dire che ho agito da stupido». Gli dissi, con la sistematica gentilezza che pareva sempre accrescere la sua sorpresa, che non volevo dire proprio nulla. Lasciavo tale cura all'avvenire. E l'avvenire, manco a dirlo, portò guai a Ghiosa. Certi giorni non ripensavo al capitano Gilles se non con profonda avversione. La sua dannata perspicacia mi aveva cacciato in quell'impiego. Ed avverandosi la profezia che mi sarei trovato in mezzo a un sacco di complicazioni, la cosa aveva l'aria di un brutto scherzo giocato a bella posta alla mia giovanile innocenza. Sì, mi trovai in mezzo a un sacco di complicazioni, molto preziose come esperienze. La gente loda tanto i vantaggi dell'esperienza, ma esperienza, a quel riguardo, significa sempre qualcosa di spiacevole, contrapposto all'incanto e all'innocenza delle illusioni. Debbo dire che le mie stavano sfumando rapidamente. Ma senza dilungarmi su quelle difficoltà così istruttive, dirò solo che si potevano riassumere in una parola: ritardo. Un'umanità che ha inventato il proverbio «il tempo è denaro» capirà la mia rabbia. La parola ritardo mi si insediò nella cella segreta del cervello, viecheggiò come un rintocco di campana assordante, agì sui miei sensi, assunse nere tinte, amaro sapore, funesto significato. Mi dispiace realmente di vedervi tanto preoccupato. Davvero, mi dispiace. Era l'unica voce che si esprimesse umanamente con me in quel periodo. E veniva da un dottore, cosa abbastanza naturale. Ogni dottore, per definizione, è umano. Quello però lo era in realtà. Da parte sua non erano espressioni d'indole professionale. Io non ero malato, ma altri lo erano. Ed ecco il perché delle sue visite sulla nave. Era il medico della nostra legazione e si intende anche del nostro consolato. Badava alle condizioni sanitarie della nave, che erano, nel complesso, poco buone e vacillavano, per così dire, sull'orlo di un generale crollo. Sì, gli uomini non stavano bene. E così il tempo non era soltanto denaro, era vita. Non ho mai visto equipaggio più a posto, come appunto disse il dottore. Mi pare che abbiate un bel gruppo di marinai. Non solo non erano mai ubriachi, ma non chiedevano nemmeno di andare a terra. Si aveva cura di esporli al sole quanto meno possibile. Venivano adibiti al lavoro leggero sotto le tende e l'umano dottore mi approvò. I vostri accorgimenti mi sembrano molto giudiziosi, caro capitano. Difficilmente riuscirei a dire quale conforto fu tale dichiarazione. La faccia tonda e piena del dottore, incorniciata da favoriti di un biondo chiaro, era un modello di affabilità. Era l'unico essere umano al mondo che sembrava minimamente interessarsi a me. In genere, ad ogni visita, si tratteneva a conversare in saletta per una mezz'ora. Gli dissi un giorno: «Penso che non ci sia altro da fare che avere cura di loro, come già fate, finché io possa portare la nave in mare, no?» Egli annuì, chiudendo gli occhi dietro gli occhialoni, e mormorò: «Il mare, indubbiamente». Il primo membro dell'equipaggio a ricevere la mazzata fu il cambusiere, il primo uomo al quale avevo rivolto la parola a bordo. Fu trasportato a terra con sintomi di colera e lì morì in capo a una settimana. Poi, quando ancora ero sotto l'allarmante impressione di quel primo colpo messo a segno dal clima, cedette il signor Burns e si mise a letto con una violentissima febbre senza aprir bocca con nessuno. Credo che si fosse ammalato a furia di rodersi. Il resto lo fece il clima, con la rapidità di un invisibile mostro annidato nell'aria, nell'acqua e nel fango delle rive. Il signor Burns ne fu la vittima predestinata. Lo trovai steso sulla schiena, tetro e stralunato, che irradiava calore come un fornello. Rispose appena alle mie domande, limitandosi a borbottare: «Dunque uno non può nemmeno prendersi un pomeriggio franco per un brutto mal di capo una volta tanto?» Quella sera, mentre mi trattenevo dopo pranzo nella saletta, lo udì bofonchiare senza interruzione nella sua cabina. Ransom, che sparecchiava, mi disse: «Temo, capitano, di non poter dedicare al secondo tutte le cure di cui può avere bisogno. Devo stare in cucina all'avanti per gran parte del tempo». Ransom era il cuoco. Il primo ufficiale me lo aveva indicato il primo giorno, mentre se ne stava in coperta, a braccia conserte, sull'ampio petto, guardando il fiume. Si faceva notare anche da una certa distanza per la persona ben proporzionata, per qualcosa di genuinamente marinaresco nel portamento. Da vicino, gli occhi tranquilli e intelligenti, l'espressione ben educata, l'indipendenza disciplinata del contegno denotavano una persona simpatica. Quando per di più il signor Burns mi aveva detto che era il miglior marinaio della nave, mi mostrai sorpreso che in età tanto giovanile e con un aspetto simile si arruolasse su una nave come cuoco. «Colpa del cuore», aveva detto il signor Burns. «Ha qualcosa che non va. Non deve fare troppi sforzi se non vuole rischiare di rimanerci secco». Ed era l'unico che era stato risparmiato dal clima, forse perché, recandosi nel petto un mortale nemico, si era addestrato a una metodica moderazione di sentimenti e di atti. Quando si era al corrente del suo segreto, ciò appariva manifesto nel suo comportamento. Dopo la morte del povero cambusiere, che non c'era modo di sostituire con un bianco in quel porto orientale, Ransom si era offerto di assumersi il doppio lavoro. «Ce la faccio senz'altro, capitano. Basta che faccia senza agitarmi», mi aveva assicurato. Ma certo non gli si poteva chiedere di fare per sopramercato l'infermiere. Inoltre il dottore diede ordine perentorio di portare a terra il signor Burns. Sorretto sotto le ascelle da un marinaio per parte, il secondo varcò il barcarizzo con un'aria più tetra che mai. Gli mettemmo dei cuscini per tenerlo su nella carrozzella ed egli fece lo sforzo occorrente a dire con voce stentata: «Adesso avete ottenuto ciò che volevate, buttarmi fuori della nave». «Non vi siete mai sbagliato tanto di grosso in vita vostra, signor Burns», dissi pacatamente e rivolgendogli un doveroso sorriso. E la carrozzella si allontanò per portarlo ad una specie di infermeria, un padiglione di mattoni che il dottore aveva nel giardino della sua abitazione. Andai regolarmente a fare visita al signor Burns. I primi giorni non riconosceva nessuno, ma in seguito mi ricevette come se venissi a godermi la vista di un nemico schiantato, oppure a farmi perdonare da una persona profondamente offesa. A volte in questo modo, a volte in quello, a seconda del suo capriccioso umore di infermo. In qualunque modo fosse, riusciva a farmelo sentire, persino nel periodo in cui sembrò debole al punto di non poter quasi parlare. Io lo trattavo con la mia immutabile gentilezza. Poi un giorno, attraverso tutti quei vaneggiamenti, esplose all'improvviso un'ondata di autentico panico. Se lo lasciavo a terra in quel paese micidiale, sarebbe morto, lo sentiva, ne era sicuro. Ma non avrei avuto il coraggio di lasciarlo. Avevo una moglie e un figlio a Sydney. Tirò fuori le braccia dimagrite di sotto il lenzuolo che lo copriva e si torse le mani scarne. Sarebbe morto. Sarebbe morto lì. riuscì proprio a tirarsi su seduto, ma per un attimo solo, e quando ricadde indietro pensai realmente di vederlo morire seduto a stante. Chiamai l'infermiere bengalese e mi affrettai ad uscire dalla stanza. Il giorno seguente mi sconvolse tutto con rinnovate suppliche. Gli diedi una risposta evasiva e lo lasciai che pareva l'immagine della disperazione. Entrai da lui l'indomani molto malvolentieri e mi aggredì subito con voce molto più salda e con un'abbondanza di argomenti che era sorprendente. Perorò la sua causa con una specie di forsennato vigore e concluse chiedendomi se mi sarebbe piaciuto avere sulla coscienza la morte di un uomo. Voleva che gli promettessi che non sarei partito senza di lui. Dissi che prima dovevo proprio chiedere il parere del dottore. A queste parole si mise a gridare: «Il dottore! Mai! Sarebbe stata la sua condanna a morte!» Lo sforzo lo aveva esaurito. Chiuse gli occhi, ma seguitò a delirare sottovoce. L'avevo odiato fin dal primo istante. Anche il defunto capitano lo aveva odiato. Aveva desiderato di vederlo morto. Aveva desiderato vedere morta tutta la gente di bordo. «Perché volete mettervi in combutta con quel cadavere malefico, capitano? Ve la farà anche a voi!» concluse con un vacuo ammiccare degli occhi vitrei. «Signor Burns», gridai molto alterato, «di che cosa state mai parlando?» Parve rientrare in sé, pur essendo troppo debole per trasalire. «Non so», disse fievolmente. «Ma non chiedete nulla a quel dottore, capitano. Voi e io siamo marinai. Non chiedetegli nulla, capitano. Un giorno, forse, avrete moglie e figlio anche voi». E di nuovo mi supplicò di promettergli che non lo avrei lasciato a terra. Ebbi la fermezza di spirito di non promettere. In seguito questa inflessibilità mi parve delitto, perché avevo già deciso. Non si poteva resistere a quell'uomo stremato, gonfiato appena abbastanza a respirare e divorato dalla paura. Inoltre, aveva azzeccato le parole giuste. Lui ed io eravamo marinai. Buon titolo di diritto nei miei confronti, perché non avevo altra famiglia. Quanto all'avere un giorno moglie e figlio, era un argomento inefficace, mi pareva soltanto strambo. Nessun richiamo poteva sembrarmi più forte e impegnativo del richiamo di quella nave, di quegli uomini immobilizzati sul fiume da shock e difficoltà commerciali come in una velenosa trappola. Comunque, m'ero aperto faticosamente una strada fino ad esserne quasi fuori, fuori in mare. Il mare, che era puro, sicuro, amico. Ancora 3 giorni. Tale pensiero mi sostenne e mi aiutò a tornare sulla nave.